tutte quelle cose, la Repubblica di Montefiorino, fare il tesseramento del grano, la distribuzione ai civili, andare a aiutare a mietere il grano. Ci sono andato anch'io, mai preso in mano, ci sono andato anch'io a aiutare a mietere il grano. Mai avuto in mano un attrezzo agricolo. Quindi lavoravate anche con i contadini. Con i contadini, infatti, ho degli amici lì a Farnita di Montefiorino che ci andavo a casa sua. Ma la popolazione di quei paesi lì, intorno alla Repubblica di Montefiorino, cioè vi vedeva sempre di buon occhio oppure avevano anche paura, magari di Ma poter. forse anche paura, per esempio, quando arrivò la Stella Rossa a Frassinoro, era quando si sono divisi dal lupo, che io non c'era ancora in mezzo loro, quando si sono divisi, hanno fatto praticamente da Marzabotto, poi sono venuti la Zocca, sono stati in giro 20 giorni, che addirittura hanno mangiato della carne di cavallo cruda, tanto per dire perché era la fame. Comunque sono arrivati qua, avevano barbe lunghe, ci puoi immaginare, questi capelli lunghi, tutti stracciati, tutti avevano fatto paura. Però a Frassinoro avevamo un cantante della radio con noi che è morto sul passo delle forge, cantava divinamente, avevamo organizzato di festeggiare proprio quel giorno che i tedeschi hanno attaccato Montefiorino. C'era una gran festa. Era il protettore di Frassinoro, allora avevamo organizzato noi proprio di fare una bellissima festa perché c'era armonia anche con i. Ma noi abbiamo avuto degli avuti a Civago, poi abbiamo avuto degli aiuti che nessuno avrebbe immaginato da quelle popolazioni perché ci avevano già bruciato delle case.